Briatore ha deciso di chiudere il Billionaire e di riaprire e aprire solo a Monte Carlo dal 2013. Chissà come mai a Monte Carlo, comunque. No, ma io guardi, come Briatore è uno degli imprenditori che rappresenta, credo, la maggioranza degli imprenditori. Ma va all'estero però. Oggi fare imprese in Italia, io faccio un imprenditore, come voi ben sapete, sì, certo. E oggi è difficilissimo tra la pressione fiscale. Quindi fa bene? Ma secondo me fa bene perché è diventato quasi impossibile poter fare imprese in Italia. Ma non è un comportamento anti-italiano, scusi? Proprio lei che dice io difendo gli italiani, esatto. Le cose... No, io sono qua in Italia con la mia impresa che non ho nessuna intenzione di chiudere. Ma lei non è più azionista? Non è più azionista del Billionaire? Sì, assolutamente, sono azionista. Dice che fa bene. Ma condivido, voglio dire, siccome io è un settore del quale non me ne occupo in prima persona... Condivide la decisione... di maggioranza. Sì. Sì. Decide, io la condivido, ma la condivido con delle motivazioni profonde perché oggi è difficilissimo fare imprese. Ma che è meglio scappare. Come Briatore non vive in Italia, perché non è come noi che viviamo in Italia, lavoriamo in Italia. Briatore da molti anni che vive all'estero. E gli faccio un appello. Aveva fatto un investimento. No, gli faccio un appello a pagare le tasse in Italia. Sì, resti in Italia. Lei è una politica che difende l'Italia, dica Briatore, Flavio, paga le tasse in Italia, ma viva Dio! Dire a quegli imprenditori che decidono di andare a produrre all'estero, mica dico che sono anti-italiani, dico che oggi con la pressione fiscale che abbiamo, con i costi del lavoro che ci sono, con tutto quello... Cioè la chiusura, la colpa è di Monti, Monti ha chiuso il Billionaire, si può dire? Così? Monti ha contribuito a chiudere il Billionaire? No, ma no, guardi, Monti io spero che non ci faccia chiudere il paese.